Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo venerdì 24 gennaio, siamo al countdown meno 2 alle elezioni Emiliano Romagnoli, che hanno un riverbero evidentemente non solo locale, che già è molto importante, ma anche nazionale. Ricordiamo che domenica sera dalle ore 23 alla chiusura dei seggi comincerà come sempre la tradizionale maratona elettorale della nostra emittente, quindi tutto l'ascolto con collegamenti con protagonisti e naturalmente exit poll, sondaggi, proiezioni e quindi voti finali. Una lezione si giocherà voto per voto, a quanto sembra. Comunque, subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Cina, Capodanno blindato, chiudono aeroporti, stazioni, cinema, in 6 giorni sarà pronto un ospedale per trattare le vittime del coronavirus. Israele, Palestina, Trump pronto a rilanciare il piano di pace. Grecia, una presidentessa donna. Indonesia, giornalista americano che ha raccontato la distruzione ambientale, arrestato. Stati Uniti, nuove regole per i visti delle donne incinte nel turismo delle nascite. Il capo dell'intelligence nazionale non consegna al congresso il rapporto sull'uccisione del giornalista Khashoggi. E ancora, Venezuela, Guaidó a Davos, ogni giorno passaporti venezuelani agli iraniani. E infine Messico, bambini soldato per combattere la criminalità. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con l'Iran. L'inviato americano Brian Hook ha avvertito che il successore di Soleimani potrebbe affrontare lo stesso destino. Gli Stati Uniti hanno assassinato il comandante delle forze Al-Quds iraniane, il generale Qassem Soleimani, all'inizio di questo mese. Questo ha quasi scatenato una guerra e le tensioni restano ancora nell'aria. L'inviato Hook minaccia di uccidere il successore di Soleimani, il generale Ismail Ghani, subentrato come capo delle forze di Quds. Hook ha avvertito che se segue lo stesso percorso incontrerà lo stesso destino. Ghani afferma di voler seguire il percorso luminoso di Soleimani, che era estremamente popolare in Iran. Il governo iraniano ha aggiunto di considerare le minacce contro Ghani come un segno di terrorismo governativo. Iraq, con i partiti sciiti che spingono perché le truppe americane se ne vadano. Gli Stati Uniti vorrebbero creare una regione autonoma sunnita nella provincia di Al-Anbar. L'Iraq rappresenta un ponte di terra strategico tra Iran e i suoi alleati in Siria, Libano e Palestina. L'istituzione di una zona cuscinetto sunnita controllata dagli Stati Uniti nell'Iraq occidentale priverebbe l'Iran dell'uso di rotte terrestri in Siria e gli impedirebbe di raggiungere le coste orientali del Mediterraneo. Per Washington l'idea di ritagliarsi una regione sunnita risale a una proposta del 2007 di Joe Biden, che ora si candida a diventare presidente per il Partito Democratico. Siria, 450.000 sfollati nella provincia di Idlib in soli 3 mesi, più di 30.000 negli ultimi 2 giorni a causa dei bombardamenti del governo siriano e russi. Trump si prepara a pubblicare entro martedì il suo piano di pace per il Medio Oriente, informerà il premier israeliano Netanyahu a Washington durante la sua visita. Trump ha detto che i palestinesi potrebbero inizialmente reagire negativamente al suo piano, ma che ne trarrebbero beneficio. Un ottimo piano, ha detto Trump, che incontrerà Netanyahu alla Casa Bianca martedì. Prevede inoltre di incontrare il rivale elettorale di Netanyahu, Benny Gantz. Trump ha detto che la sua amministrazione ha parlato brevemente con i palestinesi, che hanno respinto il piano di pace dell'amministrazione prima ancora che venisse pubblicato. Nabil Al-Burudeyne, portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas, ha dichiarato ieri che i palestinesi avvertono Israele e l'amministrazione statunitense di non attraversare alcuna linea rossa. Intanto a Gerusalemme Est una moschea è stata vandalizzata e ricoperta di scritte in ebraico stanotte, in quello che è stato definito un crimine dell'odio. Stamattina presto invece 15 palestinesi sono stati arrestati mentre andavano a pregare alla spianata delle moschee. Ieri Hamas ha chiesto ai fedeli preghiere di protesta per oggi a causa dell'aumento degli ebrei che violano il luogo sacro. Libia potrebbe precipitare velocemente la produzione di petrolio a livello più basso dalla caduta di Gheddafi nel 2011. Mustafa Sanal, capo dell'agenzia petrolifera libica, intervistato dal Financial Times, prevede che la produzione dei pozzi possa scendere fino a 72.000 barili al giorno a causa del blocco dei terminal petroliferi nell'est ordinato dal generale Haftar. E sempre il generale Haftar ha minacciato di colpire aerei civili su Tripoli. Haftar, capo dell'autoproclamato esercito nazionale libico, l'LNA, e ex asset della CIA, sta tentando da mesi di conquistare la Libia militarmente, in particolare la capitale Tripoli, controllata dal governo di accordo nazionale riconosciuto internazionalmente, il GNA. Con l'attenzione rivolta ancora ai combattimenti dentro e intorno a Tripoli, Haftar ha annunciato che sta imponendo una zona di non volo a Tripoli nell'area circostante, minaccia di colpire gli aerei civili che volano in quella zona. Il GNA ha riferito che l'aeroporto recentemente attaccato è stato riaperto e invitato le Nazioni Unite a fare qualcosa per garantire che l'aviazione civile sia autorizzata a continuare nell'area. La più grave epidemia di locuste del deserto in 25 anni si sta diffondendo in tutta l'Africa orientale. Viene dopo un aumento estremamente pericoloso dell'attività delle locuste che è stato segnalato dai funzionari in Kenya questa settimana. Le autorità hanno confermato che gli insetti continuano a rappresentare una minaccia senza precedenti per la sicurezza alimentare. Stai ascoltando Radio Bullets. Spagna sale a 9 il bilancio dei morti per la tempesta Gloria. Olanda, la Corte Penale Internazionale ha detto di essere competente per pronunciarsi sull'accusa di genocidio contro la minoranza musulmana dei Rohingya perpetrato dall'esercito del Myanmar, ha detto Ahmed Yusuf, giudice della Corte. La leader de facto del Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha ammesso ieri che crimini di guerra potrebbero essere stati commessi contro i musulmani Rohingya, ma ha negato il genocidio, affermando che i rifugiati hanno esagerato l'entità degli abusi nei loro confronti. Germania, il gruppo di estrema destra Combat 18 è stato messo al bando, ha dichiarato il ministro degli interni Seehofer. Grecia, una donna presidente per la prima volta, Ekaterini Sakelloropoulou, un alto magistrato il cui nome era stato presentato dal premier conservatore, è stata eletta dal Parlamento con una maggioranza schiacciante alla prima votazione. 63 anni, attuale presidente del Consiglio di Stato, non iscritta ad alcun partito, si sono schierati 261 deputati sui 294 presenti. Il giuramento della nuova presidente della Eliniki Dimokratia avverrà il 13 marzo. Figlia di un presidente della Corte Suprema, ha studiato alla Sorbona di Parigi, è stata anche la prima donna a presiedere il Consiglio di Stato, il massimo tribunale amministrativo greco. Russia e Ucraina stanno negoziando per un nuovo scambio di prigionieri, ha detto il presidente ucraino Zelensky in visita a Gerusalemme per il forum internazionale sull'antisemitismo e sulla Shoah. Afghanistan, il presidente Ashraf Ghani ha dichiarato giovedì che il Pakistan ha continuato a offrire rifugio a un gruppo ribelle che aiuta i talebani nella sua guerra contro Kabul e gli Stati Uniti, contraddicendo direttamente una precedente dichiarazione del primo ministro pakistano. Mercoledì il primo ministro Imran Khan aveva riferito ai giornalisti all'annuale World Economic Forum di Davos in Svizzera che la rete Haqqani, la famigerata rete Haqqani, che gli Stati Uniti ha disegnato come gruppo terroristico, non aveva attività o base in Pakistan. E voi gli avete creduto? Ha chiesto Ghani, anche lui a Davos, ieri. Si può anche dire che la Terra non gira intorno al Sole. Indonesia, un giornalista americano che ha raccontato la distruzione ecologica del paese è stato arrestato e rischia fino a 5 anni di carcere, ha detto il suo avvocato Philip Jacobson, 30 anni, e l'editore del sito web di scienze ambientali Mongabay. Il giorno in cui avrebbe dovuto partire, le autorità hanno confiscato il suo passaporto e gli hanno ordinato di rimanere in città in attesa di un'indagine. Le autorità indonesiane hanno arrestato poi formalmente Jacobson martedì sera e lo hanno trasferito nella prigione di stato di Palangkaraya, nel Kalimantan centrale. L'avvocato di Jacobson, Aryo Nugroho, ha dichiarato con un SMS che il suo cliente è stato accusato di violazioni del visto, che ha una pena fino a 5 anni di carcere. Cina, 1440 casi sotto osservazione di coronavirus, 830 contagiati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è ancora presto per dichiarare l'emergenza globale. 26 i morti. Intanto le autorità cinesi stanno isolando le città con più di 18 milioni di abitanti, chiusi cinema, musei, la città proibita, i centri commerciali, tanto più che si sta festeggiando il capodanno cinese. Molta gente ha viaggiato per raggiungere le proprie famiglie, chiuse anche stazioni ferroviari e l'aeroporto di Wuhan, e per il centro dell'epidemia niente autobus, traghetti e metropolitane interrotta. Stessa cosa per la città di Anhuagang, dove sono fermi bus, treni. Chiesto alle persone di non lasciare la città, sempre a Wuhan, la Cina in 6 giorni costruirà un ospedale con 1000 letti per trattare le vittime del virus. A Hong Kong i residenti non riescono più a trovare le mascherine per il viso che li proteggono dal virus. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Stati Uniti, la Casa Bianca ha ufficializzato che da oggi il Dipartimento di Stato non rilascerà più visti temporanei B1 o B2 alle donne incinte che cercano di entrare per il turismo delle nascite, ossia la prassi di viaggiare negli Stati Uniti per garantire la cittadinanza americana automatica e permanente per i bambini nati sul suolo americano. Un libico condannato per cospirazione negli attacchi del 2012 a strutture statunitensi a Bengasi, dove è morto l'ambasciatore americano Christopher Stevens e altri 3 americani, è stato condannato a 19 anni e mezzo di carcere ieri da un giudice federale di Washington. Una giuria di giugno aveva condannato Mustafa al-Imam a 47 anni per aver fornito supporto materiale ai terroristi e distrutto proprietà del governo negli attacchi notturni iniziati l'11 settembre 2012, dove c'era una missione diplomatica americana e la sede della CIA. Il principale funzionario dell'intelligence americana non è riuscito a consegnare al Congresso un rapporto sull'uccisione del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi, infrangendo una legge approvata il mese scorso. A dicembre i legislatori hanno approvato una vasta legge sulla difesa che includeva una disposizione che ordinava al direttore dell'intelligence nazionale di inviare al Congresso un rapporto non classificato che identificava i responsabili della morte di Khashoggi in un consolato dell'Arabia Saudita nel 2018 in Turchia. La legislazione stabiliva il termine del rapporto a 30 giorni, che è passato all'inizio di questa settimana. Anche se la CIA ha riferito che il principe ereditario Muhammad Salman ha ordinato l'uccisione di Khashoggi al consolato di Istanbul, funzionari sauditi hanno negato il suo coinvolgimento, qualcosa che il presidente americano Trump sembra disposto a credere. Il rapporto non classificato potrebbe fornire il primo riconoscimento pubblico dell'amministrazione al ruolo del principe ereditario, quello di altri funzionari sauditi, nella brutale morte di Khashoggi. Per motivi di sicurezza ai funzionari delle Nazioni Unite è stato vietato l'uso di WhatsApp dal giugno 2019, ha detto un portavoce delle Nazioni Unite di ieri, dopo che gli esperti ONU hanno accusato l'Arabia Saudita di aver utilizzato la piattaforma di comunicazione online per hackerare il telefono dell'amministratore delegato di Amazon e proprietario del Washington Post, Jeff Bezos. Venezuela, cellule di Hezbollah sono attive e 17 passaporti vengono consegnati ogni giorno agli iraniani, ha detto ieri il presidente del Parlamento venezuelano Guaidó, avvertendo della minaccia del gruppo libanese appoggiato dall'Iran. Hezbollah è presente nelle regioni minerarie nel sud del paese, ha dichiarato Guaidó a Davos. Esistono vari gruppi nel paese, stiamo raccogliendo informazioni su di loro, sono gruppi terroristici e sono attivi nella regione. Dobbiamo davvero contenere e assicurare aiutarci di affrontare questo problema, ha detto invitando i vicini regionali, Stati Uniti e le nazioni europee, a continuare a fare pressione sul regime di Maduro che sta proteggendo gli Hezbollah. Ha affermato che le risorse minerarie del Venezuela sono state usate per finanziare Hezbollah e altri gruppi terroristici e criminali, proprio come l'ISIS ha usato il petrolio in Medio Oriente prima di essere sconfitto. E concludiamo con il Messico. Oltre 1000 persone, per lo più giunte dall'Honduras in marcia verso gli Stati Uniti, hanno attraversato il fiume, le cui acque sono ancora basse ma comunque tortuose, che segna il confine tra il Guatemala e il Messico. E in una zona senza legge del Messico occidentale vengono arruolati bambini dai 6 anni in su per combattere il crimine organizzato. 19 minori sono stati introdotti in un gruppo di vigilanti che da anni combatte bande di droga nello stato di Guerrero. I giornalisti locali hanno pubblicato fotografie e video della cerimonia di introduzione in cui bambini in uniforme armati di fucili hanno eseguito esercizi tipo militare, che ha suscitato l'indignazione in tutto il paese, con funzionari dei diritti umani che lo hanno condannato come abuso di minori. Ma il leader del gruppo di vigilanza ha dichiarato che un drammatico picco di violenza nella regione e l'assenza dell'intervento del governo non hanno lasciato alla comunità altra scelta se non quella di armare anche i suoi figli. Devono essere preparati, ha detto Bernardino Sanchez Luna, il fondatore del gruppo di vigilanza noto come Crack PF. Se hanno paura, i criminali li uccideranno come piccoli polli. I membri più anziani del gruppo hanno 15 anni. Nell'ultimo decennio a Guerrero sono emerse dozzine di gruppi di autodifesa, dicono che si stanno difendendo dalle bande criminali che controllano le rotte del traffico di droghe e fanno estorsione contro le imprese della regione. I critici invece affermano che i vigilanti sono spesso loro stessi coinvolti in attività criminali. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stato con noi, appuntamento domani con il notiziario orientale.

l'invito a tutti coloro che volessero donare per la loro prima volta, se non l'hanno ancora fatto, è una cosa che fa sicuramente stare meglio, è una cosa che fate in maniera disinteressata e che in qualche modo però vi ridona tantissimo indietro, è di contattare direttamente l'Avis bolognese. E per dare un indirizzo bologna.avisemiliaromagna.it è il nostro sito sul quale è possibile fare la domanda online. Oppure basta una telefonata alla sede dell'Avis o presentarsi presso la casa dei donatori di sangue e veniteci a trovare proprio di fianco al maggiore. Esatto, accanto nell'area dell'ospedale maggiore. Benissimo, grazie, grazie mille Dario, grazie Francesco e ci vediamo alla casa del donatore. Benissimo. Non si dice così. Casa dei donatori. Casa dei donatori di sangue. Grazie, ottimo. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Grazie. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Nove minuti e trenta in punto di 24 gennaio, venerdì, countdown meno due alle elezioni, ricordando che la sera, domenica sera, come ormai è tradizione, dalle nostre frequenze, dalle ore 23, dagli exit poll fino alle proiezioni, fino ai risultati veri, daremo appunto lo spoglio delle elezioni milano-romagnole, con tanti collegamenti, voci, commenti, pianti o applausi, secondo di come va. Detto questo, ieri si è consumata questo cinico TV di Salvini che, utilizzando una vicenda di cronaca nera, di cronaca giudiziaria, l'ha eletta a sistema per criminalizzare l'intera Emilia Romagna e dire che i comunisti mangiano i bambini. Non è una cosa nuova, ma insomma, evidentemente è un valore sicuro di ogni cianceria reazionaria. Allora, il Fatto Quotidiano, mamme e bambini per un pugno di voti. Questo Salvini senza scrupoli usa le tragedie familiari. L'ex ministro sfrutta Fattaci ed è lì con la faccia da compunto, stavolta, perché la serata era in discoteca, ma il pomeriggio era lì che, con la faccia da tragedia, che abbracciava una signora leghista, evidentemente vittima dei comunisti. L'ex ministro sfrutta Fattaci di cronaca estranea alla campagna elettorale dai bimbi di Bibiano e all'omicidio di Tommy, e poi va in disco. Questo è quello. E quello che il Corriere della Sera definisce Bibiano lo scontro delle piazze. Le sardine vincono la prova numerica e cantano Bella Ciao. Sartori, noi siamo in 7.000. E parte la Stampa, che parla di un pareggio, tutti gli altri giornali confermano che la prova di piazza l'hanno vinta le sardine. Oh, naturalmente, siccome non è un torneo di calcio, non è che chi riempie più le piazze vince, però fino adesso Salvini si era arrogato di essere noi gli italiani, comprendendo anche tutti quelli che non la pensano come lui. Beh, adesso c'è qualcuno che ci ha messo la faccia, ed in molti ci ha messo la faccia per dire noi, not in my name. E la notizia dice: parlateci di Bibiano, la piazza alpina delle sardine è surclassa a quella semivuota di Salvini. E andiamo allora ad altri spunti di questa giornata. Per esempio, siamo al lo sciacallo, leghista sciacallo, del dolore usa pure Tommy ma fa flop, zero programmi e contenuti, ma non servono i contenuti, cosa servono i programmi, basta dire va già bene. Il capitano fa campagna con l'inchiesta Angeli e Demoni, pochissimi i residenti. Questo sembra, appunto, parlando nella piazza, appunto, erano i pilotati da fuori, erano quelli che hanno fatto il corteo. Ma il corteo viene così descritto dal giornale: Salvini, sardine a Bibiano, lo scontro delle polemiche. Cioè, da una parte c'è Salvini, dall'altra parte c'è Santori a pochi metri, che dice strumentalizzi. Ma com'è descritto i due cortei? Allora, alla periferia di Reggio il derby della piazza, cappa di sinistra ha creato un clima d'odio, sardine e sovranisti manifestano a 100 metri di distanza e non si scontrano le differenze, il corteo leghista è trasversale, i vecchi sfilano con i giovani, tra i pisciolini, musica e noia, di là palloncini, un po' funeri e musica, facci di ragazzi, la generazione dei trentini, delle vite, dei lavori fluidi, dei falliti, insomma. Zainetti e Codini, in qualche modo simili a leader, spuntano dal nulla. Mattia Santori, col suo sorriso beffardo e il cerchietto vestoso tra i capelli, intorno agli abitanti un po' schierati e un po' infreddoliti di un borgo catapultato dalla cronaca giudiziaria in prima pagina e per un giorno ombelico d'Italia. E dall'altra parte, invece, non c'è più il freddo, non c'è più la nebbia, sono tutti felici, sono belli, c'è anche un signore, il signor Davide, troppo impegnato a tenere al guinzaglio due splendidi cani da caccia che gli fanno compagnia. Sono leghisti pure loro, sorride orgoglioso. Conta che gli ha attaccato dei, gli ha attaccato dei, meno dei male che adesivi non votano i cani. Sì, anzi, sono troppi cani che votano purtroppo. Comunque, la, Salvini porta in piazza il dolore delle madri, chiediamo giustizia. Non ho parole. Sul palco pure la mamma di Tony Onofri, che nel frattempo, a proposito di ordine e giustizia, l'antimafia, tre impresentabili nel centrodestra. Un candidato di Fratelli d'Italia e due di Forza Italia nel mirino della commissione guidata da Morra, polemica contro di lui, barbarie, perché ha detto che sono questi candidati, uno di quale in Emilia Romagna, e gente con delle condanne, delle barbarie dirlo, non si dice. Dunque, la carica delle sardine, commentato dal Corriere anche, non è un voto, è un voto nazionale, noi truppe d'appoggio. Santori non si risponde solo con le baionette regionali, questo è il quadro. Nel frattempo, orgoglio PD, dice il Corriere della Sera, sold out di Zingaretti all'Arci Benassi. Ma a quanto leggiamo, cioè dal Corsera, abbiamo appello al voto disgiunto del PD, puntando sul disfacimento dei 5 Stelle. Zingaretti fa il pino al Benassi, Bonaccini, 5 Stelle, leghisti indecisi mi scelgono, Turi in Emilia del segretario Dem. Oggi chiusura Forlì di Zingaretti. Se andiamo al Manifesto, poi abbiamo questo tema che arriva al Delmo Cervi, il figlio del capo partigiano, un appello al voto disgiunto. Alla sinistra radicale chiedo di votare Bonaccini. Se salta l'Emilia nessuno ferma più la Lega. Le sardine hanno fatto capire chi è Salvini. Questo è il tema che arriva. E se noi, a proposito di, se vogliamo per un attimo solo distrarci e parlare di contenuti, uscendo dal parliamo di contenuti, allora l'Avvenire dice: Italia non riesce più ad adottare il mondo. E questa è l'apertura. Crollano nel 2019 le procedure di adozione, crollano del 14%, per la prima volta meno di 1000 nel nostro paese. Evidentemente questa apologia della linea del sangue della famiglia contro lo Stato cattivo, la burocrazia cattiva, in qualche modo sta creando una cultura che impedisce appunto dei gesti di fratellanza dislegati dal punto della linea di sangue. E allora abbiamo dal Manifesto questo tema che arriva anche una proposta leghista che leggiamo in Piemonte, per cui la Lega vuole ridurre i casi di affidamento in nome del contro la burocrazia e in qualche modo facendo crollare l'operazione degli operatori sociali. Questo è appunto il corollario di Bibbiano. Buongiorno Alfredo e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Riprendiamo il filo rosso da Delmo Cervi, il figlio del capo partigiano che dà un consiglio al voto, perché su tutte le prime pagine il focus è esattamente sulle elezioni regionali. Siamo a meno due giorni dal voto e tutti parlano appunto di cosa sta succedendo in Emilia, ne parlano dalle pagine del Giornale della Repubblica, Candito, Casadio, Ciriaco, Cuzzocrea, Di Raimondo, Giovara, Lauria, Longo, insomma c'era un esercito di giornalisti a Bibbiano ieri sera, quando c'erano in contemporanea le due manifestazioni, la leghista e quella delle sardine. E c'è un bell'articolo di fondo di Gad Lerner che parla appunto della questione, partendo appunto dal riferimento della manifestazione dei leghisti e sottolinea cartelli improbabili anche di pessimo gusto. Uno dei punti più salienti di questo articolo di fondo comincia così, dice: La ferocia della contrapposizione ideologica del secolo scorso, quella dall'Anta dal film Novecento di Bertolucci, negli assalti squadisti degli fascisti di combattimento, nell'epopea partigiana dei fratelli Cervi di Campegine, ancora nella guerra fredda del vescovo Beniamino Socche, che chiedeva la messa fuori legge dei comunisti e la galera per il sindaco comandante Diavolo di Correggio. Di nuovo destra contro sinistra. Anche oggi, solo che non è più in nome della guerra di classe che invoca la spallata ad abbattere il riformismo padano che vacilla. E per fortuna non scorre più il sangue di centinaia di morti come negli anni venti che furono. Sull'antagonismo sociale prevale l'accusa infamante: nel sistema del buon governo emiliano si anniderebbero diavoli. Ha usato questa parola Salvini dopo aver fatto disporre tre peluche in bella mostra che sul traffico dei minori avrebbero fondato un'industria. La scelta di mostrarsi costernati e protettivi, a differenza di Pontida, stavolta nessun bambino è stato esibito sul palco, fa parte del repertorio di un leader che qui lancia la sfida finale e annusa la concreta possibilità della vittoria inaudita domenica prossima. E anche quest'ultima cavalcata, va avanti l'articolo, sulla pelle dei bambini si configura come una parodia di squadrismo mirante a degradare l'avversario riducendolo ad essere spregevole e immorale. E ancora le cronache locali riportano appunto quello che succede in campagna elettorale, in particolare a Ferrara, dove c'è una consigliera vessata dalla Lega e dice che ammette che c'è da avere paura. Chi parla in questa intervista è Anna Ferraresi, che Carroccio voleva far dimettere promettendole un lavoro. Partito maschilista e violento, dice, il ruolo del capogruppo Solaroli, quello del video con la pistola. E per par condicio c'è anche un articolo del sindaco di Yolanda di Savoia che svela una telefonata compromettente dove Bonaccini nell'audio parla appunto di chi si candida di là, poi non mi cerchi se probabilmente vincerò. E ancora vi segnalo un articolo di fondo, è questo di Mattia Feltri, che ricorda il Marchese del Grillo e fa questo paragone improbabile tra Salvini e appunto il falegname ebreo che non voleva pagare appunto il Marchese del Grillo nel mitico film con Alberto Sordi. E le parole iniziano così: che il leader del maggior partito italiano, scortato da folla, telecamere, suoni il campanello di un 17enne tunisino a dargli dello spacciatore senza sapere nulla di lui se non per sentito dire dalla ronda serale, è che tutto questo è stato fatto passare per una bravata da una maggioranza che non dice nulla di Salvini ma dice molto del paese che stiamo diventando, una terra di conquista di unni visigoti ad onore. Silvio Berlusconi, il liberale, il nemico della giustizia sommaria, ha detto: vabbè, Salvini si poteva contenere, ma il problema della droga è molto grave, un po' come dire, siccome il problema della mafia è grave, si può telefonare a Berlusconi per dargli del compare di Riina. E gli altri di Forza Italia tutti zitti col loro garantismo on demand. L'ultimo nordafricano di cui si sono occupati, costituzione, codice alla mano in nome della civiltà giuridica eccetera, è stata Rubi Rubacuori. Beh, visto che mi parli di Berlusconi mi alzi la palla per una schiacciata, perché guardo il Tempo che dice: c'è un'eroina in Forza Italia, dice, avrà salvato un bambino che stava negando, avrà, che so, salvato l'Italia dal virus corona, non so che cosa. No, lei è Jole Santelli, ieri celebrata da Silvio Berlusconi, che dice: la conosco da 26 anni e non me l'ha mai data. E invece di fare i complimenti, si lagna il Tempo alla candidata della guida della Calabria, gli avversari si scandalizzano, perché si sa, è sogno di tutte le donne d'Italia darla a Berlusconi. Stiamo parlando della candidata alle elezioni regionali della Calabria, sì. La quale purtroppo era afona, quindi non aveva neanche la possibilità di ribattere le cose che gli venivano dette. Comunque una vera eroina, non si è mai concessa a Berlusconi, anzi non l'ha mai data, perché il concesso è troppo elegante, a Berlusconi. E allora a questo punto è davvero un sacrificio. Ma parlai di Salvini, CEI e capo della polizia critici col leader per la citofonata. Dopo la provocazione dell'ex ministro dell'interno a Bologna, dice Gabrielli, no alla giustizia porta a porta. Poi di porta a porta parliamo dopo. Quello di Salvini al citofono non è stato un atteggiamento felice, ma vorrei evitare giudizi sulle persone. Monsignor Stefano Russo, questo è la CEI. porta a porta. Dopo la bufera scoppiata a causa dell'intervento di Matteo Salvini in onda mercoledì sera nello spot di Porta a Porta durante l'intervento di Juve Roma, seguito a 2,37 milioni di spettatori, la Rai è costretta a correre ai ripari, dando uno spazio analogo al segretario PD Nicola Zingaretti nell'intervallo di Matteo, Don Matteo numero 12, 102, non so quanto, che serie sia. Vespa gli aveva dato ieri spazio alle parole del leader della Lega a pochi giorni dalle elezioni in Emilia Romagna in Calabria, questo è, e Vespa dice ammette l'errore. Ma la citofonata. Il Carlino ci dice: Salvini suona il citofono, scatta lo sciopero del tiro. Evento su Facebook dopo il blitz del senatore leghista al pilastro. Là c'è il capo della politica Gabrielli, abbiamo visto con Sura nell'idea del carroccio. Dunque, c'è questo inedito sciopero del tiro lanciato su Facebook, racconta il Carlino, da Giorgio Pirazzoli, che ha subito spopolato sulle bacheche degli utenti bolognesi. L'appuntamento è fissato per domenica negli stessi orari per cui si voterà alle regionali dalle 7:23 ed è un appuntamento virtuale, nel senso che il luogo fisico indicato è tutta l'Emilia Romagna. Lo sciopero del tiro significa metaforicamente non aprire la porta in regione al leader del carroccio. Il 26 gennaio non aprire la porta in regione, si aggiunge pagina del Facebook intervento, esci di casa e vai a votare, scendi in strada e parla con gli amici, vicini e conoscenti, non farti sorprendere la citofono, stavolta rimandiamo davvero i leghisti a casa loro. E allora noi abbiamo raggiunto con il nostro direttore, il signor Giorgio, che tra i direttori di questo sciopero del tiro, sentiamo come giustifica questa iniziativa. Siamo indignati perché l'altro giorno abbiamo visto lui là che andava a cercare di farsi aprire da una persona al quartiere Pilastro e gli ha detto una cosa sciocca, gli ha detto: lei mi fa votare per favore? A Bologna si dice: lei mi dà il tiro. E siamo indignati che una persona invasore, straniera, venga qui e non rispetti le nostre tradizioni. Noi ci siamo così uniti quindi in gruppo per questo sciopero del tiro che sarà la domenica dalle 7 alle 23. Non apriremo all'invasore leghista, andremo quindi a votare, usciremo di casa, cercheremo di parlare con i nostri amici, conoscenti, vicini di casa per convincerli di andare a votare. È importante appunto che chi si presenta alle elezioni in Emilia Romagna conosca anche la terminologia, le tradizioni della nostra terra, giusto? Assolutamente, assolutamente. Su ogni condominio di Bologna c'è scritto luce e tiro, quindi se uno vuole entrare a casa sua, le faccio un esempio, deve dire: mi dai il tiro, non mi fa entrare, lei è uno spacciatore o altre cose che non c'entrano con il tiro. Quindi accanto al tiro abbiamo anche un'altra cosa molto importante che è la luce, e noi quindi invitiamo tutti i cittadini ad accendere la luce, andare a votare e non dare il tiro agli invasori leghisti. Ma non è che magari ha frainteso appunto la questione del tiro con la questione delle droghe, perché appunto lui là, come lo chiami, insomma, cercava uno spacciatore? Così può essere, se lui forse pensava di essere potuto essere frainteso, se avesse detto, scusi, che sono un po' ignorante, noi indignati siamo molto ignoranti, ma ci dà ancora più fastidio l'ignoranza di certa gente, che forse non ha usato tiro, perché tiro lo usa per altri tipi di droghe che è abituata magari a... sì, ma chi lo sa, insomma, lei mi ha capito. Ricordiamo l'appuntamento e l'iniziativa. L'appuntamento e l'iniziativa dello sciopero del tiro si terrà tutta la domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23. Per partecipare allo sciopero del tiro, guardi, è molto semplice, è sufficiente non aprire all'invasore leghista in Emilia Romagna, non aprire le sue porte di casa, ma magari, ecco, non farsi sorprendere al citofono, uscire di casa, andare a votare, questo è molto importante, e magari andando a votare, rientrando, parlare con amici, vicini, conoscenti e portare anch'essi a votare contro questi invasori leghisti che non conoscono la parola tiro. Accendete la luce, non date il tiro all'invasor. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Ringraziamo il signor Giorgio Pirasoli perché per lo sciopero del tiro, e nel mentre che lui dice queste cose noi portiamo il rusco fuori e quindi no, parliamo di elezioni anche in Calabria. Ahimè, e qui le cose, ancora una volta il piatto piange, perché regionali in Calabria la sinistra è un fantasma. Nessun candidato presidente, dice Silvio Messinetti, anche la lista di Carlo Tan si è finito per imbarcare di tutto, perciò in nome dell'allargarsi si perde ogni connotato identitario, quindi non si capisce perché non deve essere votato. Comunque, con Mimmo Lucano impegnato a difendersi sono rimasti solo trasformisti, c'è quindi le caratteristiche della Calabria che andavano contrapposte, come l'esperienza di accoglienza di Riace, sono state in qualche modo svuotate e per la sposta degli impresentabili. Detto questo, in centro-sinistra la scelta di Callipo, il re del tonno, convinto a correre da uno studente, un imprenditore, il mio appello è 5 Stelle. D'altra parte, centrodestra, la volta dei Santelli, della Mattia, da sì che unisce Forza Italia e Lega. Polemica per questa frase di Berlusconi che abbiamo sentito su non me l'ha mai data per la candidata Iole Santelli. Detto questo, nel frattempo ora Zingaretti spinge per l'alleanza dal confronto 5 Stelle più forti, il piano segretario del PD per portare i movimenti in un nuovo centro-sinistra, e questo ci porta alla crisi di Di Maio. E allora, Preti Di Maio, nel fuorigioco del voto regionale, racconta il manifesto, il ruolo del capo politico dimissionario dipende dall'esito delle urne di domenica, crimine le prese con gli stati generali fermi al palo. Dice nello staff del ministro degli esteri, nessun passaggio di intervento di Di Maio era anche lontanamente a rivolta di Battista, cioè i serpenti interni, che il ministro considera invece un amico. Questo è quanto. E il Travaglio ci parla delle idi Di Maio, quindi c'è un gioco di parole, anche una cosa quasi futurista. Comunque Di Maio, Travaglio, nel più bel discorso della sua carriera politica, quello dell'addio, Di Maio non ha fatto l'autocritica che l'avrebbe reso perfetto, ma ha detto cose condivisibili, soprattutto una: i partiti muoiono sempre per cause interne, mai per quelle esterne, e questo c'è del vero. Ma nel frattempo c'è chi sente l'odore del sangue governativo, ed è il Giornale, e ora trema Conte verso il voto. Dopo Di Maio il premier si blinda nel bunker di Palazzo Chigi, maggioranza nel caos. Sì, sempre in tema di elezioni, è uscita la lista della commissione antimafia, e per le elezioni regionali ci sono 3 candidati impresentabili. Guarda un po', sono tutti di destra. Uno alle elezioni dell'Emilia Romagna, si è candidato con Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti, e ha ripondato una condanna in primo grado per perculato con rito abbreviato. E 2 sono quelli candidati in Forza Italia, in Calabria. Uno è Giuseppe Raffa, che è a giudizio per concorso in corruzione e sulla pubblica amministrazione, il processo in corso, e l'altro, un altro candidato di Forza Italia, sempre in Calabria, Domenico Tallini, anche lui giudizio e stesso reato di corruzione, ce lo dice Alessia Candito, appunto pubblicando questo elenco dalle verifiche della Commissione parlamentare antimafia presieduta dal 5 Stelle Nicola Morra. Sia in Italia, in Calabria che in Emilia-Romagna, i 2 partiti contano su aspiranti consiglieri regionali con più di un giudizio giudiziario, un problema giudiziario, una violazione del codice di autoregolamentazione che la politica si è data, ma che i diretti interessati adesso sembrano mal digerire. E ancora riguardo la politica, tra Grillini e Emilia, governo a rischio e tilt, ce lo dice Tommaso Ciriaco, e i temi sono i tormenti dei 5 Stelle, il maggiore partito della coalizione di governo nella bufera dopo l'addio di Di Maio. Conte lavora per evitare che il caos prevalga, il PD di Zingaretti che trema pensando a una possibile sconfitta e una destabilizzazione in Emilia Romagna nelle prossime elezioni. E poi c'è il siluro di Italia Viva, i 5 Stelle sono già finiti, la frase di Renzi sembra preludere all'archiviazione del Conte 2. E per quello che riguarda invece i 5 Stelle, ci sono 2 donne in corsa per il movimento, la Appendino e Taverna, per sostituire Di Maio al governo. Cominciata la partita per la successione dell'ex leader, le incognite sono di Battista e di Grillo, che ancora non si sono espressi, dal fondatore ancora silenzio sulla crisi interna, sfida anche tra Patuanelli e buona fede per la guida della delegazione di governo. Ancora politica e RAI, ci sono state le scuse della RAI e di Vespa per lo spot elettorale che Salvini ha avuto la possibilità di fare così gratuitamente a scapito della par condicio su Rai 1 prima del programma di Bruno Vespa. Il conduttore si scusa dicendo: svista della redazione di cui mi assumo tutta la responsabilità, per riparare da spazio a Zingaretti nella pausa di Don Matteo. E veniamo allora al tema ambientale, cominciando sempre da quello che respiriamo. È il Corriere che ci dà il bollettino giornaliero delle polveri sottili. Lui è Alessio Ribaudo, a pagina 17, leggo: la maglia nera dello smog a Milano, Torino e Frosinone. I dati di Legambiente: il capoluogo lombardo a gennaio ha superato 19 volte i limiti di polveri sottili. Da settimane le città del centro-nord Italia sono avvolte da una cappa di smog, un problema cronico specialmente nella regione della pianura padana, dove le centraline antinquinamente hanno già suonato nelle prime tre settimane del 2020 un numero di volte preoccupante. Questo è il Corriere della Sera. Ma visto che parliamo di questioni ambientali, veniamo dunque al tema che riguarda Trump. Trump rilancia gli sversamenti tossici nei fiumi e poi marcia contro l'aborto. Questo è il tema dell'ambiente negli Stati Uniti d'America. L'amministrazione Trump ha perfezionato e presentato ufficialmente il progetto di legge che punta a eliminare le protezioni ambientali vigenti sui corsi d'acqua, zone umide e bacini idrici di ogni dimensione, consegnando una vittoria alla lobby dell'agribusiness, ai produttori di combustibili fossili e ai sviluppatori immobiliari, quali sostengono che le regole precedenti di Barack Obama li incatenano a norme onerose e inutili. Questo è via i lacci lacciuoli del reganismo riversato da Trump nei fiumi. Questo, e poi per rifarsi un consenso, cosa fa? La fa pagare le donne e marcia contro l'aborto, quei ambienti più sanfedisti. Dalla Casa Bianca, dagli America, veniamo invece alla Cina. Chi disbosca la Siberia? Nella regione di Tomsk comanda il business cinese senza scrupoli, l'affare è soprattutto il legno che prospera con gli incendi dolosi. Gli operai uzbeki ci lasciano la pelle. Ancora una volta lo sfruttamento ambientale in qualche modo si collega con lo sfruttamento delle persone. Sì, continuiamo a parlare di ambiente partendo da vicino a noi, dalle Marche, e parte da Ancona il progetto per risolvere l'emergenza ambientale nel mare del Kuwait. Un gruppo di imprese italiane operanti nel settore della sostenibilità ambientale e del disinquinamento in mare in partenza per Kuwait City al fine di promuovere un vero e proprio modello di filiera sostenibile made in Italy nel paese afflitto da un'emergenza delle proprie acque. Il gruppo, capitanato dal Garbage Group di Ancona, parteciperà domenica al workshop Italian Water Management Capacity on Ports and Water Depollution, primo evento di questo genere realizzato nel paese che si affaccia nel Golfo Persico. E invece dalle pagine della Stampa apprendiamo che la città più inquinata d'Italia è Torino, ce lo dice Lega Ambiente nel rapporto appunto annuale. Torino è la città più inquinata d'Italia, la conferma della maglia nera arriva con la pubblicazione di Malaria, il report di Legambiente che certifica un nuovo anno nero nel capoluogo piemontese, dove in 147 giorni sono stati superati i limiti di guardia per le polveri sottili. L'ozono è al secondo posto, si classifica Lodi con 135 giorni fuori legge, poi viene Pavia con 130, Torino conquista il primo posto anche nella graduatoria del decennio 2010-2019, quando è stata in vetta la classifica per lo sforamento delle PM10 sette volte. Non è stata la sola a soffrire di smog, nello stesso periodo altre 28 città è stato superato il limite massimo consentito fissato dall'Europa nel 2020, e allarme in 5 capoluoghi: Milano, Frosinone, Torino, Padova e Treviso, male anche Napoli e anche Roma. L'ormai cronica emergenza dello smog va affrontata in maniera più efficace. Ancora notizie che abbiamo preso sull'ambiente, le andiamo a leggere da Repubblica, e c'è un bel editoriale di Tonia Mastrobuoni che ci parla di Davos e diritti e l'ambiente. E certo che qualche dubbio sulla scelta tu cure di atterrare in aereo tra le Alpi resta, comunque fa specie che si parli di ambiente e si continui ad inquinare. Tanto più che gli ambientalisti veri hanno scelto modi massacranti per scalare le montagne svizzere. I ragazzi svedesi di Friday for Future hanno viaggiato un giorno intero in treno per raggiungere Davos e Greta Thunberg ha guidato una marcia di protesta di 40 km dall'Anquart per attirare l'attenzione dell'emergenza sul riscaldamento del pianeta. A Davos però l'ecologia non sembra essere stata solo un tema da cartellone e non solo perché alcuni colossi della finanza delle multinazionali famosi per aver incarnato il capitalismo più rapace si stanno convertendo all'ambiente. Il più grande fondo finanziario al mondo, BlackRock, ha ribadito alla vigilia del forum di voler porre il clima al centro dei suoi investimenti. Microsoft ha rivelato di voler raggiungere nel 2030 emissioni zero. La Nestlé ha promesso che investirà 2 miliardi di dollari per impacchettare in modo meno inquinante i suoi prodotti. Apparentemente, se una volta c'era la beneficenza a ripulire le coscienze dei miliardari alla Bill Gates e Mark Zuckerberg, oggi sembra essere l'ambiente e la strategia per smacchiare tanti marchi globali dall'accusa di guardare solo ai profitti. Ma fanno solo greenwashing, come si dice oggi in gergo. In realtà il discorso è più complesso e lo riassume bene un economista brillante come Marianna Mazzuccato, intercettata a margine del forum, e la quale dice: la chiave per capire tutto è che per l'Europa la protezione dell'ambiente, il Green Plan Action, è diventata la strategia di crescita futura. Rispetto alla creazione di valore, parliamoci chiaro, le aziende di business verde è ancora periferico, ma per una volta il primato arriva dalla politica e potrebbe essere la svolta europea a precedere le tendenze economiche di tutto il mondo. E invece dall'altro lato Trump si è espresso a favore invece delle energie fossili e in particolare ha intenzione di rispolverare il nucleare, anche se adesso ci sono tecniche per l'utilizzo dell'energia nucleare molto più pulite e molto più sicure rispetto a Chernobyl, Fukushima e altre centrali che hanno definito il piano di smantellamento di tutte le centrali della Germania entro il 2050. Veniamo alla questione migrazione, così poi collegata alla questione anche ambientale. E da Gorizia, questa è la cronaca, questo migrante deceduto nel CPR, quel migrante morto dopo due pestaggi, racconta Vincenzo Bisbiglia dal Fatto Quotidiano. I verbali dei testimoni rischiano di essere inutilizzati, sono stati i testimoni rimpatriati. Quindi fai sparire il testimone, fai sparire anche il verbale. Questo è il concetto di giustizia coloniale che si applica in casa nostra ai migranti. Perché, dice Gianfranco Schiavone, radicale, espellere i testimoni rischia di compromettere le indagini, c'è il rischio che non possano ripetere la loro versione all'interno del processo. Quindi Nuchizza è stato pestato in due occasioni prima di morire. Nuovi dettagli dalle testimonianze fornite ai PM di Gorizia sulla morte di Vaktan e Nuchizza, 38enne georgiano, trovato morto lo scorso 18 gennaio in una stanza del centro permanenza rimpatri di Gradisca di Sonzo, poco distante dal capoluogo giuliano. Questo è il quadro che arriva e ne è inutile che il capo della polizia Gabrielli pare di assurde provocazioni contro la polizia, dovrebbe più correttamente parlare di fare piena luce e sentire tutti i testimoni come si conviene in uno stato di diritto, ma gli stati di diritti sono in qualche modo vacillano qua e là, perché leggo la denuncia di Medici Senza Frontiere: il governo greco nega le cure ai profughi, l'ONG almeno 140 bambini rischiano di morire sulle isole e chiede il trasferimento sulla terraferma dei malati cronici. Dal 2019 i richiedenti asilo non hanno diritto all'assistenza sanitaria. Poi andiamo invece ai soliti gridi d'allarme che arrivano dal giornale, che specula sulle guerre che capitano sulla povera gente che sono colpevoli due volte, prima di prendersi le bombe e poi di scappare dalle bombe. E quindi Raffaele Volpi, presidente del COPAS, l'organismo parlamentare per i servizi segreti, attenzione massima sulla crisi in Libia, i profughi sono 600.000, ma al limite appare questo numero che è dato tanto a capocchia perché non si sa, ma allestire accoglienza per 600.000 persone, se questa è la previsione, non dire attenzione tiriamo su dei muri. Non c'è solo un problema di immigrazione ma di stabilità, gli elementi di tensione permangono ma sono diventati marginali. Naturalmente anche sulla anche nell'immaginario hollywoodiano l'altro riprende i temi della fantascienza, perché è sempre successo, e qui mettiamo a confronto due film. Uno è quello citato dal giornale con Matteo Sacchi, corpi giganti e paure normali, Godzilla, King Kong and Company, il mostro è il nostro specchio, King Kong tra l'altro è una povera vittima, un saggio sulle strane bestie e la loro nuova mitologia, proiettiamo sullo schermo un'angoscia esistenziale che si aggiorna di continuo, quindi l'altro come momento di paura e di sospetto. E invece si contrappone l'ultimo film di Star Trek, Picard, che vede in scena il vecchio capitano, che quello che è mai stato razzista, lui baciava tutte le creature dell'universo a prescindere dal loro DNA, altro che prima gli italiani. Star Trek Picard, più che lo spazio si parla di politica e immigrazione. Edoardo Balcone, parlando appunto intorno di questo vecchio comandante, Star Trek Picard è anche una serie attuale politica, al centro di tutto c'è il rapporto tra gli umani e altre specie, si parla di diversità e di immigrazione. Il tema è la base di questa stagione e credo che sia in futuro si inaspirerà ulteriormente, dice Stewart. Cosa antica, perché già negli anni 50 la fantascienza americana con gli ultimatum della Terra vedeva, o con la guerra dei mondi, vedeva degli alieni che vogliono distruggere e dominare il mondo, in particolare gli americani, mentre la fantascienza della sinistra, per esempio quella del pioniere Gianni Rodari, vedeva dallo spazio arrivare consigli di umanità e di convivenza. Quindi onore a Star Trek. E 07 minuti primi, rassegna stampa di Radio Città Fujiko, ancora qualche notizia sull'immigrazione e le persone indigenti, le prendiamo dalle pagine della stampa, al giornale di Torino, c'è Giuseppe Culicchia che ci fa appunto ci dà una buona notizia, vestiti, maglie, giubbotti appesi per strada, spuntano ovunque i muri della gentilezza. Che cosa sono? Sono posti dove praticamente prende piede il nuovo fenomeno sociale nato per aiutare i bisognosi, da Milano a Palermo, a Torino e anche a Bologna. L'ultimo muro della gentilezza in ordine di tempo è comparso a Torino lo scorso 11 gennaio in via Vipacco, grazie a Zina Dobre, parrucchiera nata a Timisoara in Romania, uno dei paesi più poveri tra quelli che prima della caduta del muro di Berlino facevano parte del blocco sovietico. Sul muro di fronte al suo negozio è attaccato un biglietto dove c'era scritto Pennarello: questo è il muro della gentilezza, creato per chi ne ha più bisogno. Accanto al biglietto Zina ha piazzato un attaccapanni carico di vestiti invernali, subito svuotato da chi ne aveva necessità, e immediatamente ritirato in negozio dalla donna così da evitare una multa per occupazione abusiva di suolo, anche se lei intanto si sta adoperando per ottenere la relativa autorizzazione. Di questi posti ce ne sono in giro per l'Italia, abbiamo detto, da Milano, allestito in via Luigi Nono 2, quello di Torino ne abbiamo appena parlato, appunto in via, in zona aeronautica, e la ringhiera della gentilezza a Castelletto Ticino, vicino a Novara. La cronaca ci porta questo articolo di Carlo Macri del Corriere a Locri: ville, Ferrari, imprese mai dichiarate, i furbetti del reddito di cittadinanza. A Locri scoperti 237 abusivi, alcuni anche in carcere, danni allo Stato per 870.000 euro. Ma invece di complimentarci con le forze dell'ordine che hanno scovato questi delinquenti, l'articolo sembra dire che il reddito di cittadinanza va a chi ha la Ferrari. Questa è la stupidità. Sarebbe come dire, siccome abbiamo scoperto dei falsi ciechi che prendono indebitamente il sussidio per ciechi, per non vedenti, e Dio sa quanti ce ne sono stati, qualcuno volesse mai chiudere tutti i sussidi per i portatori di handicap. Lo stesso ragionamento è un po' infelice. Invece veniamo alle autostrade, perché siamo alla questione eterna. Dice il Secolo XIX, che tifa naturalmente per i concessionari: autostrade pronte al dialogo, il governo non la distrugga. Questo è l'amministratore delegato di Atlantia. Ah, sono pronte al dialogo? Che altro, cacciati i soldi. Ma da Genova, autostrade, questo è il Fatto Quotidiano, valuti se sulla A7 sia meglio ristrutturare i viadotti o rifarli da capo. E questa dà la dimensione anche della gravità della situazione. Il capo degli ispettori: si faccia analisi costi-benefici. Questo è quello che arriva da Genova. Sempre col Fatto Quotidiano mi sposto a: abbiamo avuto tante spese, le banche stangono i correntisti. In filiali, concorso di salvataggio, i tassi negativi BCE hanno spinto gli istituti a continuare rincari. I conti zero spese non esistono più. C'è chi ha fatto un conto: per SOS tariffe i servizi offerti allo sportello sono aumentati del 27%, quelli online del 29%. Questo è tema. Ma forza Pantera, perché è tornata, benvenuta. E caccia la Pantera tra impronte, piste e avvistamenti, così la prenderemo. Rimani libera, perché sei il simbolo per tutti noi. Una giornata con la forestale a San Severo. La trappola con un'esca allestita per catturare il felino. Sarà una legge maggioritaria la trappola. Comunque, l'appello: segnalate se la vedete. Ora che gli abitanti scoppia la psicosi, un video con l'animale è diventato virale. Poi c'è la fine di un miracolo. Il caso, raccontato da Camilla Conti, sempre dalla pagina del Giornale, è questo: Grom punta ai supermercati, chiude le prime gelaterie. C'era anche a Bologna, non so se sia ancora chiusa o aperta, Grom, in via d'Azeglio, Grom. Il piano di Unilever, proprietario del marchio, grande distribuzione, chioschi e bici, ma non smantelleremo. Silenziano commenti dei due fondatori, da cui nacque nel 2003 questa startup che ha avuto tanta fortuna. Gelato al limone, sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e berline colorate, ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate, ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita, con una valigia di perplessità. Ah, non avere paura che sia già finita. Ancora tante cose quest'uomo ti darà. E gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Tra cronaca e altri argomenti riprendiamo dall'ex Silva all'ArcelorMittal. Una buona notizia arriva in un'intervista fatta a Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Europea, la quale dice: l'Unione Europea apre all'ex Silva, pronti a discutere sugli aiuti di Stato. Emanuele Bonini da Bruxelles che ce lo dice. Su all'Italia nessun commento, ma su Ilva l'Unione Europea è disposta a parlare. Il piano per la sostenibilità può essere usato per il polo siderurgico di Taranto, facendo uso della flessibilità delle regole e valutando quali condizioni si intende intervenire. Nulla è deciso, ma tutto è ancora possibile. Appunto, questo è Margrethe Vestager. Ancora sul lavoro, una grande distribuzione di supermercati, l'Auchan, che ormai è chiusa, è stata acquisita da Conad, e adesso in Lombardia si parla di mettere a casa 800 lavoratori, ma si pensa addirittura di arrivare fino a 2000. La zona dintorni di Milano di cui si parla è Rozzano, denominata Rozzangeles, come la chiama chi vuol fare l'americano, appunto. Ancora altre notizie le prendiamo dal Carlino e parliamo di decreto fiscale che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri questa notte e prevede il taglio delle tasse di 3 miliardi in busta paga a partire da luglio. Tutti i lavoratori dipendenti e la pubblica amministrazione avranno un cospicuo aumento. Questo aumento è per il momento fissato e terminerà sicuramente al 31 dicembre. Ancora ci parla di cuneo fiscale anche le pagine del Sole 24 Ore, dove ci fa un resoconto complessivo. Il decreto è stato approvato nella notte, è rinviato l'inizio per un problema tecnico collegato all'estensione dei bonus di una fascia di reddito, e c'è un grafico che prevede erogazione del contributo a partire da 28.000 euro all'anno di reddito fino ai 39.000 euro di reddito all'anno. Contributo è abbastanza cospicuo. Il taglio del cuneo fiscale nell'urna, il governo ci riprova. Ieri sera il Consiglio dei Ministri fino a tarda ora, questa mattina Gualtieri, il ministro competente, ha dato il risultato e dicendo alla stampa, e andiamo a riportare questo flash d'agenzia: dal 1 luglio le buste paga saranno più pesanti. L'ha definito un passo importante con le risorse della lotta all'evasione. A regime il taglio del cuneo costerà 6 miliardi l'anno, così ha spiegato ancora Gualtieri, che dice che l'obiettivo è un disegno di legge delega sulla riforma dell'IRPEF che vari un sistema più semplice, però testuale, e più equo, in direzione di una riduzione della pressione fiscale per i ceti medio-bassi, ha detto Gualtieri. Poi sulle pensioni ha anche aggiunto: la proposta dei sindacati non è concreta, abbiamo avviato un confronto. Quindi sulla proposta dei sindacati ai 62 anni è un niente. A proposito, siamo in argomento di cose governative. Mille proroghe, stop alla cannabis light. Tra i circa 800 emendamenti su oltre 2000 al mille proroghe giudicati inammissibili dalla Presidente delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, ieri c'era anche quello che chiedeva la liberalizzazione della cannabis light, firmato da una trentina di parlamentari di 5 Stelle, PD, LeU e Più Europa. Viene giudicata estranea la materia, come se non fosse un fatto economico ad aprire i negozi del cannabis light. Comunque, siamo basiti di fronte a tante responsabilità, sostengono i sindacati CGL, CISL e UIL, si tradiscono queste persone lasciandole senza alcune prospettive. Questo è quello che arriva dal manifesto. Ci spostiamo allora invece in pagina internazionale. Chiaramente lo scenario è quello. Aspetta, volevo dare solo un breve flash, sempre dalle pagine della politica del Sole 24 Ore. Ieri la Cassazione ha dato il via libera e ha giudicato pertinente la richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari, che parte da 71 senatori, legittima. Entra un'altra variabile quindi negli scenari di crisi, il possibile ritorno alle urne, che sarà previsto da marzo a maggio di quest'anno. Vedremo. sapremo prossimamente cosa accadrà. Sì, sembra che le cose vadano un po' più alle lunghe. Comunque, il Corriere della Sera, dicevo, sullo scenario internazionale, coronavirus, questa parola che comincia a diventare tristemente familiare, e che c'è dei scenari che fino adesso avevamo visto in certi film nei canali privati di catastrofismo, ovvero sia l'esercito che blinda le città con milioni di abitanti. Oggi è realtà di cronaca. Leggo dal Corriere: virus, la città, isola quattro città, ma sono città dai 5 ai 16 milioni di abitanti in Cina. Sì. 20 milioni infatti di persone in quarantena, una cosa che è difficilmente immaginabile. A Fiumicino l'ultimo volo a rischio, perché naturalmente c'è anche una prima vittima, ahimè, fuori dall'epicentro di queste quattro città, e questa cosa significa che è un problemaccio anche per la Cina, che pure ha una agilità di manovra sulla popolazione che altri paesi non hanno. 20 milioni di quarantena, chiusa la città proibita, Pechino annulla il Capodanno, serate di cinema e ristoranti, sui social cinesi è la fine del mondo. E ci sono anche altri casi sospetti in tutto il mondo stesso, di cui uno anche a Bari. Non è ancora un'emergenza globale, però la cautela dell'OMS sulla diffusione della pericolosità del nuovo coronavirus. Dopo Wuhan, altre quattro città cinesi in quarantena. L'epidemiologo Rezza: abbiamo già la sequenza, i tempi della SARS ci vollero dei mesi per capire appunto il vaccino. Sì, su questa epidemia c'era anche un caso segnalato in Italia, a Bari, una cantante in rientro da una tournée proprio nella zona del focolaio, ma pare che sia rientrato il problema. Continuiamo e concludiamo questa rassegna stampa 10 e 20 minuti primi, continuando a parlare di mondo. La Germania ha messo fuori legge il movimento neonazista. Il ministro degli interni tedesco Horst Seehofer ha messo ieri al bando la formazione estrema destra Combat 18, dichiarandola con effetto immediato come fuori legge, in un contrasto con l'ordine costituzionale, fondata in Germania nel 1999 con un braccio della British National Party. In America impariamo che Trump è andato alla marcia contro l'aborto, ed è la prima volta che un presidente fa una mossa del genere, probabilmente dal tono elettorale. Ancora notizie arrivano dall'Italia. Il 25 gennaio del 2016 è la data ricorrente sulle pagine della stampa, ed è il giorno in cui al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, veniva ritrovato il corpo del ricercatore italiano orribilmente torturato. Sono trascorsi 4 anni da quel 25 gennaio e ancora non si hanno risposte circa il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio. Per questo motivo, l'occasione del 4° anniversario della scomparsa, Amnesty International propone nuovamente un momento condiviso di richiesta di verità. E domani in decine di città italiane si accenderanno migliaia di candele alle 19:41, ora esatta del 25 gennaio di 4 anni fa. Ed è per questo che la nostra redazione ha raggiunto con Teresa Fallavollita la intervista a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. Sentiamo le sue parole. C'è chi ha fatto il suo dovere, la Procura di Roma, che è arrivata a individuare alcuni funzionari dell'apparato di sicurezza egiziano coinvolti almeno nelle fasi precedenti il sequestro di Giulio e presumibilmente anche nelle fasi successive. Però dal lato della magistratura egiziana non c'è stato alcun segno di collaborazione, e per quello che riguarda l'Italia, 4 diversi governi la verità per Giulio l'hanno chiesta con timidezza e in maniera incostante, pensando che si potesse ottenerla anche mantenendo ottime relazioni col governo di Al-Sisi, e quindi è una strategia che non ha funzionato. Dopo 4 anni abbiamo, come dire, una verità che è storica, che chiama in causa la responsabilità dello Stato egiziano, alla quale però non corrisponde ancora una verità giudiziaria. Secondo lei si corre il rischio di finire con l'accettare la versione ufficiale delle autorità egiziane, di mettere la questione in secondo piano? Se c'è chi pensa questo si sbaglia. Io non credo che alla fine sia questo il desiderio delle autorità italiane, però c'è una questione che va risolta, cioè l'idea di poter ottenere la verità a un costo politico e diplomatico zero, mentre tutto va avanti, gli accordi economici, gli scambi commerciali, la collaborazione nel campo della possibile pace in Libia e altre questioni, non ha funzionato. È evidente che occorre che l'Italia faccia qualcosa di più sul piano politico, più decisivo, anche a costo di incrinare i rapporti, se si vuole veramente la verità. Se altrimenti si preferirà accettare una mezza verità, una verità di comodo, in cui qualche funzionario di rango minore egiziano verrà sacrificato in nome degli ottimi rapporti tra i due paesi, saremo di fronte a una situazione inaccettabile. E questa è appunto la vicenda di Regeni, questo drammatico e tristissimo anniversario. Un'occasione persa, c'era la possibilità a Gerusalemme di fare un discorso sull'antisemitismo, sulla Shoah, giusto e sacrosanto tra gli stati, ma Bibi Netanyahu, leader israeliano, ne approfitta per fare campagna elettorale per il suo governo, la sua oppressione sul popolo palestinese. Questo è quello che ci racconta il manifesto. Dall'olocausto a Teheran, Netanyahu si prende il forum, al memoriale della Shoah l'incontro con 41 capi di Stato per contrastare l'antisemitismo. Naturalmente il trucco è sempre quello, confondere l'antisemitismo con l'antisionismo e l'antisionismo col governo israeliano e la guerra italiana con Bibi Netanyahu. E quindi in nome di quei poveracci messi nelle camere a gas dei nazisti, Netanyahu può opprimere i palestinesi. Questo è il quadro. Tutti devono essere unirsi contro l'Iran, lo stato più antisemita del pianeta. Netanyahu, in nome del popolo ebraico, grazie per il vostro impegno, dice Raven Librin, tra i tanti capi di Stato presenti in quell'occasione. E allora il 75esimo anniversario di questa della grande strage della Shoah, così commentato da Fabio Scuto del Fatto Quotidiano, gli ebrei dall'antisemitismo si devono difendere da soli, quindi giustifica la potenza imperiale di Israele nella zona medio orientale. Ma questo porta disgrazie su disgrazie. E abbiamo anche ognuno che ci mette il suo. Chi toccia il pane nel sangue e nel terrorismo è il sultano della Turchia Erdogan, che viene così descritto da Francesco Battistini del Corriere della Sera in questo reportage, non dalla Turchia ma dalla Libia. Uno dice: cosa fanno i turchi in Libia? Quello che fanno gli americani in Iraq, cioè imperialismo. I mercenari di Erdogan hanno la mimetica, non le mostrine. A Tripoli tutti li cercano, in realtà sono tanti sirici, in tanti sono siriani, combattono per $2,000 e un passaporto turco perché gli hanno promesso la nazionalità. Questa è la tristezza dei mercanti di morte. Con questo noi ci congediamo con la rassegna stampa. L'appuntamento prossimo naturalmente domani alla stessa ora. Ciao a tutti e risentirci. Ciao.